Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, bentornati, prima puntata di Smart City dopo la pausa estiva. Allora, talvolta il dibattito proprio sulle Smart City diventa un po' tecnocentrico e finisce per perdere di vista l'obiettivo principale, che è il miglioramento della qualità della vita degli abitanti di queste benedette città. Nel corso dell'ultimo anno, per esempio, abbiamo dedicato diverse puntate alla sicurezza stradale. Oggi le strade fanno circa 4.000 morti e 300.000 feriti all'anno e quindi è del tutto evidente che questo aspetto sia cruciale, per esempio, nella progettazione della mobilità. Ma nonostante questo non se ne discute. Un altro aspetto cruciale riguarda l'accessibilità da parte delle persone con disabilità a tutti i servizi. E qui attenzione, perché siamo tutti destinati a diventare almeno un po' disabili per il semplice fatto che invecchiamo. E quindi, insomma, per capirsi, il punto qui non è essere generosi con le persone disabili, ma comprendere che si tratta di progettare dei servizi accessibili a tutti. Ecco perché oggi e domani cercheremo di non trarci in un tema che, rubacchiando, diciamo, definizioni qua e là, potremmo battezzare così: Smart City for All. Non a caso ne parliamo con Roberto Vitali, che è fondatore di Village for All, una società che svolge consulenze, direi, in varie parti del mondo in tema di progettazione di servizi universali e che è anche stato consulente del Ministero del Turismo. Buonasera Roberto Vitali. Buonasera a te. Dunque, una delle prospettive che si aprono, direi uno, diciamo, dei pezzi forti del Smart City, ma anche di tutte queste nuove tecnologie multimediali, è la possibilità di erogare delle informazioni personalizzate, e questo evidentemente può essere molto utile proprio per una persona con disabilità, soprattutto quando viaggia. Ecco, ti pare, Roberto, che ci siano stati dei passi avanti da questo punto di vista? Beh, in verità dei passi avanti non ne vedo tantissimi. Siamo passati dal simbolo della carrozzina con cui viene dichiarata l'accessibilità nelle varie guide cartacee a due, tre simboli utilizzando i colori, carrozzina verde, carrozzina gialla, carrozzina rossa, per dire se è più o meno accessibile, ma in realtà, non avendo un modello di riferimento. Cioè, quando tu dici modello di riferimento, dici le disabilità sono di moltissimi tipi, no? Esatto, ognuno ha le proprie esigenze, poi ognuno ha le proprie abitudini, le proprie aspirazioni. La carrozzina in realtà è uno strumento che non è né meglio né peggio di un paio di occhiali, serve a compensare una carenza e quindi la differenza la fa la persona che sta sopra. Se tu ci metti sopra un paraplegico o una persona con una lesione midollare alta, il risultato è ben diverso. Allora, io non ho bisogno di sapere se tu mi dici puoi entrare perché sei in carrozzina oppure mi metti un simbolo di una carrozzina verde o gialla. Io ho bisogno di sapere quali sono le larghezze delle porte, ho bisogno di sapere quali sono le pendenze delle rampe per poter valutare se in base alla mia capacità, alla mia manualità, alle mie voglia anche di essere autonomo, quella struttura è adeguata alle mie esigenze. Ecco, anche perché finora abbiamo parlato di disabilità di tipo motorio, che già sono di moltissimi tipi, perché c'è la disabilità legata alla deambulazione, ma ci sono altre disabilità, ci sono persone che hanno difficoltà ad afferrare degli oggetti, per esempio, per cui la larghezza delle porte non è un loro problema, magari hanno problemi diversi. Ma poi ci sono tutte le altre disabilità legate alla vista, legate all'udito, no? E ci sono anche, certo, disabilità di tipo cognitivo. E una non esclude l'altra, voglio dire, io sono paraplegico, ormai sto diventando ipovedente perché devo portare gli occhiali. Quando vado in giro, giro con una bambina che ha 5 anni, e se mi vai a sommare tutte queste variabili, vedi che, cioè, non si possono creare degli standard. Capisco le richieste di standardizzazione, il perché vengono fatte, ma bisogna comprendere che per quello che riguarda il tema dell'accessibilità e soddisfazione di bisogni legate alle disabilità, all'autonomia delle persone, non è possibile standardizzare. E certo, quello che non è standardizzabile, punto e basta, non si può. Certo, basta. Certo. Ecco, un'altra possibilità interessante, per esempio, nelle scorse Olimpiadi invernali, qui in Italia, c'era la possibilità, se ricordo bene, di elaborare dei percorsi personalizzati, per esempio dei percorsi che escludessero pendenze molto elevate. Questo tipo di soluzioni, che appunto oggi sono possibili perché abbiamo in un cellulare il navigatore, abbiamo il GPS, abbiamo la connessione internet, sono risolutive, possono, diciamo, per esempio sostituirsi a uno sforzo infrastrutturale anche solo parzialmente? Ma guarda, l'informazione, se è valida, se è attendibile, è sempre importante, è sempre uno strumento di valutazione. Bisogna però tenere presente che ci sono delle variabili. Non dimentichiamo che un'informazione è valida quando non supera l'anno di vita, quindi le informazioni vanno rinnovate tutti gli anni. Quindi intanto invecchiano queste informazioni, no? Queste diventano vecchie, ma perché ti fanno uno scavo davanti a un'entrata, perché ti cambiano un marciapiede. Poi ci sono le variabili che dipendono dalle persone, e questo è un problema di cittadinanza e di rispetto degli altri. Se ti molli certo. La macchina parcheggiata sugli scivoli, hai voglia che il comune faccia gli scivoli. Certo. Senti, ecco, un altro tema che mi sembra interessante riguarda proprio la fruibilità dei mezzi con i quali possiamo ricevere informazioni. Tra l'altro un grande numero di servizi in futuro passerà, e sempre più già nel presente sta passando, attraverso questi dispositivi mobili. Però banalmente molte delle app in circolazione, per esempio, non mi pare prevedano la possibilità di utilizzare caratteri più grandi, tasti più grandi. Insomma, qui entriamo veramente nel tuo campo, quello del design for all, io credo. A che punto siamo? Beh, io credo che qui ci sia ancora molto da fare. Tu sai che quando è nato internet, proprio perché era uno strumento completamente testuale, era uno strumento completamente accessibile anche alle persone cieche e ipovedenti. Poi abbiamo cominciato a usare la grafica, strumenti più complessi, Flash, Super Flash, QuickTime e così via, e si è complicato di molto la situazione. Ora siamo arrivati a un livello di standardizzazione per quanto riguarda internet, con le norme W3C e le app che ti aiutano a rendere accessibile internet. Sulle app ancora non ci siamo arrivati. Ora forse è il caso di cominciarsi a chiedere se non valga la pena di darti qualche indicazione anche sullo sviluppo delle applicazioni per il mobile. Grazie Roberto Vitali. Grazie a te. È tutto, a domani.